Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Oh, dopo le previsioni del tempo del GR di Radio Popolare si torna in diretta sui 103.1 dagli studi di Via Zanardi con il Breakfast Club. Oggi un last minute che potremmo portare in altri suoni, però inizia domani, quindi ho preferito scegliere per tempo un'attinenza con l'immediatezza della 13ª edizione di questo festival. È il Festival Snodi, intersezioni musicali per portare sonorità riprese in maniera totalmente e piacevolmente anomala, per incuriosire un pubblico attento alla scoperta di sonorità dall'altrove, con altri strumenti, con altre scritture musicali e con possibilità d'ascolto così inconsuete, ma allo stesso tempo anche di grande particolarità. La rassegna, prezzatissima tra l'altro, è giunta alla 13ª edizione grazie al Museo Internazionale Biblioteca della Musica, Strada Maggiore 34 per la precisione, l'organizzazione dal settore Musei Civici di Bologna, e un'altra sede di cui ci parlerà Jenny Servino, che ho intervistato per conoscere e dare approfondimento alla nuova edizione di Snodi, che debutta domani con l'unica tappa italiana del tour europeo di Serum, un trio di folk d'avanguardia. Magari dopo ne ascoltiamo anche un brano tra un segmento di conversazione con Jenny Servino e l'altro, per dare anche un piccolo assaggio di quello che sarà, non dico una linea, però una delle tante sonorità di incontro all'interno del Festival Snodi, giunto alla 13ª edizione. Per la presentazione della nuova edizione di Snodi, S tra parentesi Nodi, dall'idea appunto di quello che può essere un filo conduttore, Festival di Musica Inconsuete, ci presentiamo, siamo con Jenny Servino, direttrice del Museo della Musica. Per quanto riguarda questa nuova edizione imminente, dal 23 luglio all'11 settembre, a proposito di Snodi, quali saranno i fili conduttori e quelli invece di confronto? Allora, intanto diciamo, Snodi è nato come festival per chi rimane in città e per motivi vari non viaggia, quindi noi gli diamo l'occasione di fare un viaggio, anzi di fare 8 viaggi musicali intorno al mondo. Snodi è proprio perché sono dei concerti in cui le musiche si incrociano, quindi si incrociano le culture diverse, si incrociano gli strumenti diversi e quindi ovviamente anche le musiche. Quest'anno c'è una novità, ci sono 2 concerti in più che si terranno però nel cortile del Museo Civico Medievale. Sempre musiche inconsuete, sempre musiche che si incrociano, a tema con la mostra che è attualmente ospitata al Museo Civico Medievale. Quindi 2 concerti dedicate ai rapporti tra Islam, tra Oriente e Occidente, incrocio di popoli, eccetera. E questo è, diciamo, già importante come linea per entrare in questi snodi. Come si comincia e quando si comincia? Allora, si comincia il 23 luglio con la tappa italiana del tour europeo di Serum, che sono questa, viene definito imaginary folk band, quindi una band che fa un folk di avanguardia, un folk sperimentale in cui utilizza strumenti tipici della tradizione slovena strumenti invece provenienti da altre civiltà, quindi strumenti africani, strumenti orientali, eccetera. Poi si continua il 30 luglio con Farawalla, che è un quartetto vocale che viene da Bari, e loro definiscono un repertorio carsico, perché il loro nome prende spunto proprio dall'altipiano carsico della Murgia, e quindi anche loro presentano una serie di intrecci musicali che vanno appunto da quella che è la tradizione popolare pugliese in avanti, diciamo. Thank you. Progetto che stiamo ascoltando, l'ho pronunciato male con la S tipica bolognese, Sirom, no, è Sirom, quindi grazie a Jenny Servino per averci dato adito di entrare almeno con questo piccolo assaggio nelle musiche che saranno portate alla 13ª edizione del Festival Snodi. Si comincia domani, Museo della Musica, martedì 23 luglio e alle ore 21. Per quanto riguarda la formazione, Anna Cravania, viola, daffo, carina, mizmar, balafon, hub e voce, Istok Koren al guembri, al banjo, tank drum e percussioni, siamo qui alla ghironda, tempura brak, lira, liuto, risuonatori acustici e elettronica. Della musica è la sede di Museo Civico Medioevale per due serate off nei mercoledì del festival. Musiche inconsuete, sonorità come state ascoltando di incontro, di conferma che la musica non ha recinti. Snodi ha una presentazione nei caratteri che è una S tra parentesi e la parola nodi che invece è lasciata per esteso, e anche questo già rende l'idea, insomma, delle linee del filo conduttore di tale sensazione sonora. E per quanto riguarda invece la rubrica altri suoni, sì, ok, come vi ho detto, potevo inserire all'interno di tutto ciò la presentazione che stiamo ascoltando, ma è veramente immediato l'inizio, per cui ho preferito lasciarlo all'interno di un last minute. Allora, martedì 23 luglio Sirom, e poi ne ascolteremo anche in questo caso una parte, un brano, un'esibizione canora di Farawalla dalla Puglia, con la tradizione che incontra a sua volta altre tradizioni per questo quartetto vocale che ha motivo di poesia veramente molto intenso. Intanto, allora, martedì 23 luglio e martedì 30 luglio. Ho portato anche un inizio per quanto riguarda il mese di agosto e poi modalità di partecipazione e altre informazioni per quanto riguarda la composizione di queste formazioni presenti all'interno del festival. Si riprende il mese di agosto, esattamente il 6 agosto. Poi il 6 agosto, una cosa molto strana che ci ha colpito molto, quindi il Duovo Tasso, Simone e Niccolò, che sono due strumentisti, polistrumentisti anzi straordinari, di origine piemontese, che sono già venuti ospiti da noi, ma che durante una residenza hanno incontrato due musicisti di origine orientale, Fan Chi e Michael Lee Seremno, lui norvegese di origine orientale, lei taiwanese, e quindi hanno creato questo quartetto musicale in cui succede qualsiasi cosa, insomma. Il programma poi si dipana ovviamente fino quasi al termine dell'estate. Per avere informazione non solo così immediata come stiamo dando, ma molto esaustiva su piattaforme piattaforme social online. Sì, si può consultare il sito del Museo della Musica, museibologna.it/musica, dove c'è tutto il programma, ovviamente anche su tutti i social, su Facebook, su Instagram. Possono venire a acquistare i biglietti qui in sede o online su Mida Ticket. Una mia curiosità, come avvengono le selezioni o come vengono presentati questi progetti? La selezione avviene sulla base della pubblicazione di un avviso pubblico, per cui questi progetti vengono presentati autonomamente o dai musicisti o da associazioni o da manager insomma di gruppi. Quest'anno sono arrivati 58 progetti, quindi abbiamo dovuto fare una grossa selezione per arrivare agli 8, diciamo, nostri più i due che si terranno al Museo Medievale. Ma ogni volta sono nuovi, quindi? Ogni volta sono nuovi. Solo per Faragualla avevano già presentato il progetto l'anno scorso e non li avevamo potuto portarli sì, qui perché sempre la data non coincideva, però sì, sono sempre progetti prima nuovi, volta in sì, snodi sì, ok, abbiamo parlato di sedi per quanto riguarda i concerti, ce ne sono altre da aggiungere o sono queste due? No, le sedi sono queste due, Museo della Musica, Strada Maggiore 34 e Museo Civico Medievale, via Manzoni 4. Io la ringrazio tantissimo e le auguro un buon snodi. Grazie. Corutena busarico bivido nerude bam bam. Manu savido lavido fetido nerude bam bam. Dorute bam bam, nerute bam bam. Dorute bam bam, nerute bam bam. Ho scelto questo brano perché il titolo riporta una favola, una poesia indiana dedicata a Rikki-Tikki-Tavi, una mangusta. È un racconto indiano con una metrica tutta particolare che lessi da bambino e mi appassionò tantissimo quando ho visto questo titolo e ho percepito la parola mangusta all'interno di questa narrazione poetica di Faragualla. E pensate che l'arrivo è dalle Murge, dalla Puglia, per cui sono veramente snodi importanti. Beh, questa mangusta, con grande critica e stranezza dei genitori, era l'animaletto domestico di un bambino indiano. Come puoi tenere una mangusta, ma insomma è un animale selvatico, eppure i due erano molto molto molto affezionati e legati. Tutte le loro avventure, tutte le loro difficoltà in un'amicizia intensa, molto particolare, ma anche così inconsueta, no? E poi quando decidono di dividerli, perché insomma non si può, a tutto c'è un limite, una mangusta. E in questa passeggiata alle spalle del bambino si presenta, del ragazzo oramai, si presenta un pericolosissimo cobra. Pom pom pom pom pom pom pom pom. Bambino inciampa, il cobra sta per attaccare, un attacco letale, ma come ben sapete la mangusta è il nemico naturale dei serpenti, dei cobra, e questo particolare animale dal morso letale prenderà per il collo il pericoloso serpente e lo distruggerà, lo porterà alla morte, salvando il giovane ragazzo sempre criticato perché aveva questa mangusta costantemente vicino. Beh, vedete l'amicizia anomala a volte quanto può salvare. Per quanto riguarda questa formula di racconto e poesia, ci piace pensare che l'amicizia inconsueta ha salvato la vita a questo ragazzo. Siamo giunti al termine di questo Last Minute Altri Suoni dedicato a Snodi, 13ª edizione. Grazie a Jenny Servino, direttrice Musea Internazionale e Biblioteca della Musica, grazie al settore Musei Civici di Bologna. L'appuntamento è da domani fino all'11 settembre 2024. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento subito dopo la pubblicità, perché come ben sapete iniziano i Magazine, la rassegna stampa culturale dei 103.1. A tra poco. Mangusta.